Eccoci in collegamento telefonico con Gino Zagari, Draka Distribution, per parlare della nuova uscita in sala del film Egon Schiele di Dieter Berner dal 26 al 28 febbraio in sala. Gino, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' brevemente di questo film. Basata sulla vita, la storia e le opere di Egon Schiele, uno dei più importanti artisti del primo Novecento, uno dei più grandi innovatori della pittura, al pari dei grandi della pop art. È un film che, basato sulla biografia di Schiele, quindi non è un documentario, ma è un film che prende, un film vero, è un film con grandi attori e con un grande impianto narrativo. Senti, c'era già stata l'uscita a novembre. Che risultati ha avuto? Abbiamo fatto un'uscita test in poche e selezionate sale e abbiamo avuto dei risultati straordinari. Ti potrei dire che abbiamo avuto 1500 spettatori in 3 giorni a Torino, 1000 spettatori a Bari, 1500 spettatori a Roma. Insomma, dalle Alpi alle piramidi, come si dice, il film ha dato la dimostrazione che c'è un interesse fortissimo verso l'arte, verso i grandi artisti e verso i film ben fatti. Dal tuo punto di vista, Gino, quali sono gli elementi del film che più ti hanno catturato? Basato sulla storia di un uomo trasgressivo, innovatore, su un pittore che ha rivoluzionato l'arte contemporanea. Questo, legato alla storia e alla, se vogliamo, alla controprogrammazione rispetto a tanti film che ci sono in sala, ha mostrato grandissimi incassi, grandissimo interesse e una attenzione particolare verso questo genere di film. Senti, di Dieter Berner in Italia conosciamo qualcos'altro? Austriaco, ti posso dire che il film in Austria ha avuto uno straordinario successo, Sì. vabbè, ma lì era facile, però è un regista che affronta con una lucidità cinematografica e con una precisione stilistica mondi lontani, se vogliamo, comunque parliamo del periodo Liberty, qui parliamo del periodo del primo Novecento. Con un'eleganza pari a, potrei dirti, film recenti come Carol, dove si è vista una eleganza cinematografica che non si vedeva da tempo. Senti, ci parli anche un po' dell'esperienza Draka Distribution? Draka Distribution è una piccola e indipendente casa cinematografica che si sta posizionando nel mercato, nel difficile mercato cinematografico, cercando di proporre dei prodotti in linea con una linea editoriale ben precisa. Ci piace e ci piacerà sempre di più offrire film su tematiche artistiche, su grandi biografie, su grandi autori. Abbiamo acquistato recentemente uno straordinario film a Berlino, il Real Vermeer, basato sulla storia di un pittore, non il Vermeer, ma un pittore che riproduce le opere del Vermeer e che durante la Seconda Guerra Mondiale è stato talmente bravo e talmente preciso da riuscire a rifilare ai nazisti una serie di opere false del Vermeer. Alcune di queste opere fanno difficoltà a essere riconosciute come false e quindi sul Vermeer ci sono una serie di opere non chiaramente identificabili, non attribuibili certamente a lui. Senti, ci spieghi anche questa nuova uscita dal 26 al 28? Nell'affollamento delle uscite paranoiche, escono a volte anche 10-15 film a settimana, noi ci siamo posizionati con un'uscita evento il lunedì, martedì e mercoledì, perché crediamo che i nostri spettatori in quei 3 giorni, creando un evento cinematografico, possono avere più comodità a raggiungere le sale rispetto al fine settimana ingolfato delle grandi uscite cinematografiche e si trova sicuramente più spazio nelle sale migliori per poter gustare questo genere di film. Come mai una doppia uscita per Cile? Ma la prima è stata un'uscita in cui volevamo testare il gradimento. seconda uscita è a dimostrazione che l'idea iniziale era buona. Questo è un settore, quello dell'industria cinematografica, dove bisogna andare anche per tentativi, per sperimentazioni nuove, cercando di trovare delle nicchie e degli spazi che gli spettatori gradiscono. In chiusura ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più del film e di Draca? Sì, il film si trova, ha una propria pagina Facebook, Egon Schiele il film. La Draca si trova a Draca Cinema, www.dracacinema.it. Che altro? Credo sia tutto. Allora, un ringraziamento e un saluto a Gino Zagari di Draca Distribution, ricordando l'uscita in sala di Egon Schiele, il film di Dieter Berner, dal 26 al 28 febbraio. Gino, un saluto e a presto. Grazie a tutti voi, buona giornata, grazie.